kana foi foi de la la ka eh konani bay alan mohammed yaka eh ne ka korsi siranya kaneya bato jati sibaya kana alan mohammed yaka bele kobe kana fondo kane ka ko alla jati kana fondo bato ka ko alla kana fondo sina fondo nya ka ko alla kana sedi fondo ma ka ko alla allah akbar e ka sedi fondo ma ka sedi alla ma e ka filaka fu e ka fondo kanu ka alla kanu e ka filaka fu e ka fondo bato ka alla bato e ka filaka fu le be filaka fu e jula kan gbe ma le ta filaka kana filale ka fu e do ko ko le ta alla ta alla bila nya ko ale ko ma mi ye ta wa za gumbe Ni ma nafa, naam e do na wa edura